Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon Santo Stefano da Andrea Ferro. Anche in questo programma la cronaca si impone con i fatti dei giorni scorsi e l'emergenza terrorismo quanto mai collegata al settore dei trasporti che è al centro della nostra attenzione. Era accaduto il 14 luglio a Nizza, la scena si è ripetuta la scorsa settimana a Berlino, un camion lanciato a tutta velocità contro la folla per compiere una strage nel centro della città. Al di là dei servizi di intelligence, al di là di ogni misura preventiva, questi attentati generano un senso di sostanziale impotenza. Non ci sono armi, non ci sono esplosivi, si usano mezzi commerciali che necessariamente devono avvicinarsi alle città per trasportare e consegnare la merce. Alla luce di questa minaccia, come è possibile difendersi? La domanda rimbalza ossessivamente da mesi. In Italia esiste un progetto per ridurre questo tipo di rischi ed è incardinato nella Piattaforma Logistica Nazionale, cioè un database nel quale si dovranno registrare i flussi delle merci in transito su tutto il territorio e quindi avverrà il tracciamento dei mezzi che le trasportano. Allo scopo di rafforzare la security, un'applicazione specifica è stata studiata per i centri urbani. Ci spiega meglio Rodolfo De Dominicis, il presidente di Wirnet, la società che per conto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha varato la Piattaforma Logistica Nazionale. Funziona in questi termini: si crea un anello virtuale intorno alla città metropolitana, vuol dire semplicemente che agli accessi, alcuni accessi critici verso il centro o tutti gli accessi vengono blindati con un sistema virtuale che identifica il TIR quando passa. Il che vuol dire che chiunque che voglia andare nel centro di una città deve passare a gioco forza attraverso uno di questi varchi. A questo punto il TIR, passando all'interno di uno qualunque dei varchi, viene riconosciuto. Se il TIR non è riconosciuto, si deve far riconoscere, altrimenti non può passare. Se passa senza essere riconosciuto, scatta automaticamente un allarme e l'allarme fa scattare automaticamente i servizi di sicurezza. È inutile dire che non è che il rischio di un attentato non si azzera, perché quei rischi di questo genere non si possono azzerare. Però il rischio si può fortemente mitigare e si può ovviamente... si possono applicare delle contingency, cioè fare degli investimenti che permettano di tenere il rischio il più basso possibile. Ogni mezzo necessariamente dovrà essere dotato di un dispositivo in grado di interagire con questo anello virtuale di protezione dei centri urbani. Il camion deve essere dotato di uno strumento che ne permette la detezione da parte del varco virtuale. Quindi è chiaro che qualunque veicolo, prima di entrare al centro di una città, deve essere dotato di un sistema a bordo tale da poter far sì che il camion stesso possa essere letto dal varco. È chiaro che aggancia il camion e lo traccia durante il percorso all'interno del centro della città. Quindi in ogni caso il camion viene controllato nella sua evoluzione all'interno della città e viene controllato anche quando si avvicina al bordo. Al di là dell'applicazione legata all'emergenza terrorismo, la Piattaforma Logistica Nazionale è stata concepita per interconnettere tutti i soggetti impegnati nei trasporti e nella logistica, con l'obiettivo di ottimizzare i flussi di merci a favore della competitività del paese e quindi nel segno di un miglioramento delle performance finora inadeguate rispetto alle esigenze del nostro sistema produttivo. Ricordo che nel ranking della Banca Mondiale occupiamo la 21esima posizione, fatto ancor più grave per un paese che esporta molto. Proprio in questi giorni è stata siglata la concessione per l'esercizio della piattaforma. Sentiamo ancora il presidente di Wirnet, Rodolfo De Dominicis. Abbiamo in consiglio d'amministrazione aggiudicato definitivamente la concessione ventennale per la gestione della piattaforma. E questo ha un raggruppamento costituito da Hewlett Packard Enterprise, Vitrociset e Fai Service. Questo raggruppamento è quello che per 20 anni sperabilmente gestirà la piattaforma, una parte gestirà la piattaforma, ma ne curerà anche tutti gli aspetti evolutivi, nel senso che dovrà fare investimenti per un valore di circa 60 milioni di euro per innanzitutto rendere capillare su tutto il territorio nazionale il servizio e contemporaneamente poi dovrà restituire alla mano pubblica un canone di 2 milioni e mezzo all'anno per 20 anni. E torniamo all'emergenza terrorismo. In molte città in questi giorni, in queste ore, è scattata una specie di zona rossa con barriere di cemento a proteggere le piazze dove si tengono le manifestazioni. Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha annunciato la necessità di adottare una serie di limitazioni al transito dei mezzi pesanti nei centri urbani. Contro misure di questo genere si è subito schierata Conftrasporto. Al nostro microfono il presidente Paolo Uggè. Sono misure che noi consideriamo frutto dell'emotività del momento, ma ci attendiamo da un governo un comportamento più lineare per quanto riguarda la lotta al terrorismo. Non è certo mettendo dei blocchi di marmo o di sasso che si evita la possibilità che automezzi pesanti, cosiddetti TIR, possono entrare nel centro urbano. A Milano, per esempio, nessuno credo abbia mai visto da tempo un TIR che entra nel centro cittadino. E voglio anche dire che gli automezzi, quelli di piccola portata, 1,5 tonnellate o 3,5, che sono quelli che assicurano i rifornimenti ai negozi, beh, se fossero imbottiti di esplosivo farebbero forse ancora più danno di quanto potrebbe fare un TIR. Quindi mi sembra una misura che non ha senso, fatta solo per far vedere che si fa qualcosa e che prende in giro gli italiani. Il terrorismo si combatte adottando delle misure che rimangono strutturali, aumentando i controlli. È chiaro che non si può sconfiggere totalmente, ma la strada è quella lì, e non annunciare delle cose inutili che hanno il tempo che trovano. Il deficit logistico del nostro sistema dipende molto dall'impianto infrastrutturale inadeguato. Per decenni a simboleggiare le arretratezze della rete stradale è stata la Salerno-Reggio Calabria, concepita negli anni 60, ultimata nel 1974 e già all'epoca vecchia rispetto alle esigenze della mobilità, tanto più per una direttrice strategica di collegamento tra il nord e il sud. Per molti anni gli interventi di ammodernamento si sono impantanati negli scandali e nei ritardi, con la criminalità organizzata a gestire gli appalti, inchieste, intimidazioni, arresti, una storia italiana alla quale giovedì scorso si è aggiunto un nuovo capitolo. È stata inaugurata infatti la galleria Laria, in provincia di Cosenza, che, unita al viadotto Italia, costituisce a sua volta un simbolo dell'autostrada che ha cambiato direzione. Eppure nome, visto che ora si chiama A2, Autostrada del Mediterraneo, quindi la naturale prosecuzione della 1, l'autostrada del sole. Sul viadotto Italia, accanto alla galleria Laria, giovedì scorso, abbiamo intervistato Ugo Di Bernardo, direttore Operation e Coordinamento Territoriale di ANAS. Questa è la vera inaugurazione della Salerno-Reggio Calabria? Questo è il momento in cui si ultimano i lavori, la Salerno-Reggio Calabria diventa interamente percorribile, adesso si passa alla gestione della Salerno-Reggio Calabria. Per cui noi faremo di questa un'autostrada moderna, tecnologica, avanzata. Contiamo di farla diventare la prima autostrada con livello di tecnologie avanzate. E questo è il viadotto, siamo nel punto più alto, nell'autostrada più alta d'Europa, quindi nel punto più alto come della Salerno-Reggio Calabria, che nonostante sia al sud del nostro paese è un'autostrada di montagna perché attraversa per intero un Appennino. Mancano ancora una cinquantina di chilometri soggetti ad opere di ammodernamento. Ci sono dei lavori di manutenzione che devono essere fatti in un'ottica proprio di project review, nel senso che verrà fatto completamente lavori di manutenzione importanti che non avranno impatto però con la viabilità, quindi non sarà mai più interrotta la Salerno-Reggio, questo era l'obiettivo che ci siamo dati. Per concludere, diciamo che questa è veramente un'autostrada ora. Questa è una bella autostrada, questa è un'autostrada, ma anche una bella autostrada. Nel segno dell'intermodalità e della competitività, nei giorni scorsi a Livorno è stato inaugurato il nuovo terminal ferroviario della Darsena, che consente il collegamento diretto tra il porto e la linea tirrenica. Costata complessivamente 40 milioni di euro, l'opera ridurrà i tempi di passaggio dei carri da e verso lo scalo Labronico, favorendone i traffici. il presidente della regione toscana Enrico Rossi. I tempi, come si sa, nella logistica contano. Il porto di Livorno diventa più competitivo e quindi ci saranno più traffici e più lavoro. È stato un po' duro farla perché abbiamo messo 13 milioni di fondi strutturali, siamo dovuti andare più volte in Europa a convincerli che non erano aiuti di Stato, però insomma ce l'abbiamo fatta. Ringrazio anche qui la mia delegazione in Europa perché questi 13 milioni alla fine si sono sbloccati. Ne abbiamo messi 20 come Regione Toscana e altri 7 sono arrivati dal Ministero. Non è l'unica cosa, l'anno prossimo partiranno i lavori per il cosiddetto scavalco. Proprio oggi entra in vigore il decreto che definisce gli standard tecnici e le modalità operative da seguire per effettuare la comunicazione preventiva di distacco transfrontaliero dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi per le imprese che vogliono operare in Italia o che effettuano trasporti di cabotaggio. Il decreto del Ministero è in linea con la direttiva dell'Unione Europea relativa al distacco e somministrazione transnazionale di lavoratori. L'obiettivo chiaramente è contrastare frodi e violazioni che contribuiscono a creare condizioni di concorrenza sleale. Va detto che la circolare del Ministero non riguarda i trasporti internazionali, sia quelli in transito che quelli che hanno come destinazione il nostro paese. Oggi mi fermo qui, a breve Carlo Genta con uno speciale di Tutti Convocati dedicato ai fatti salienti del 2016. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con la prima puntata del 2017 di Hashtag Autotrasporti. Grazie per l'attenzione e buone feste da Andrea Ferro. Hashtag Autotrasporti.